quel tempo nacque una discussione tra i discepoli chi di loro fosse più grande. Allora Gesù, conoscendo il pensiero del loro cuore, prese un bambino, se lo mise vicino e disse loro: Chi accoglierà questo bambino nel mio nome, accoglie me, e chi accoglie me, accoglie colui che mi ha mandato. Chi infatti è il più piccolo tra tutti voi, questi è grande. Questo brano che abbiamo appena letto viene subito dopo il brano che abbiamo analizzato sabato scorso. E che brano era? Era il brano in cui diceva Gesù ai suoi discepoli che il Figlio di Dio stava per essere consegnato nelle mani degli uomini. E abbiamo visto che significato aveva quel brano, cioè Gesù stava dicendo loro, annunciando loro che avrebbe molto sofferto per mano delle persone che lo avrebbero appunto schernito, schiaffeggiato, crocifisso e che poi sarebbe risorto. E quindi passato questo, finito, Gesù ha appena finito di dire che appunto sta per essere consegnato nelle mani degli uomini e che fanno i discepoli? Si mettono a discutere su chi è il più grande, che vuol dire essere grandi, come si fa a essere grandi, e tutti questi paragoni. Vedete, Gesù sta dicendo che sta per essere crocifisso e gli apostoli pensano a chi è più grande. E questo è quello che succede anche a noi. Quante volte noi, anche nei momenti più tragici, quando le persone magari stanno soffrendo per cose anche molto importanti, noi stiamo a pensare a chi è il più grande, a come primeggiare, a come dominare sugli altri, a come essere grandi. Ecco, il Signore oggi ci dà un insegnamento centrale e molto importante per la nostra vita. Noi siamo grandi quando siamo piccoli. Questo sembra un paradosso. Sembra un qualcosa di non realistico, ma in realtà è così. Come nella vita fisica ci si abbassa quando si è alti, se uno non è alto non ha quasi mai bisogno di abbassarsi. Io ne sono un esempio eclatante, sono alta 1,60 e non, quasi raramente, insomma, sono chiamata ad abbassarmi perché tutto è molto più alto di me. Ma ci sono persone alte che mi circondano che invece continuamente si devono abbassare. Allora, quando si è alti ci si abbassa. E se io non mi so abbassare, vuol dire, e se non sento il bisogno di abbassarmi, vuol dire che non sono veramente alto. E questo è vero anche per la grandezza d'animo. Allora, se vogliamo essere veramente grandi, grandi e nobili d'animo, dobbiamo veramente abbassarci. Quindi, che cosa vuol dire abbassarci nella vita quotidiana? Vuol dire non voler far pagare agli altri il male che ci hanno fatto, non volerci vendicare, non voler avere l'ultima parola, saper cedere nelle discussioni, non creare un clima teso. Ecco, oggi vogliamo concentrarci su questo, la parola di Dio ci sta invitando ad essere una presenza mite in mezzo ai nostri familiari, in mezzo alla gente, in mezzo ai nostri colleghi di lavoro, nel luogo, in cui il Signore oggi ci chiama a spendere la giornata. Allora vogliamo essere miti, perché? Perché come un clima mite è gradevole, una temperatura mite è gradevole per il nostro fisico, così una persona mite rende la propria compagnia piacevole. E se io mi accorgo di essere una persona che crea tensione, allora devo cercare in tutti i modi e di correggermi perché questo non perché la tensione è proprio ciò che non mi rende grande, ma mi rende invece piccolo d'animo. La mia grandezza d'animo sta proprio nell'essere capace di abbassarmi, e questo non è perdere la mia dignità, ma anzi affermare la mia dignità. Alle volte abbiamo paura che gli altri ci calpestino, che gli altri possano diminuire la nostra dignità. No, solo noi possiamo diminuire la nostra dignità quando non sappiamo abbassarci. Buona giornata.